Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Che cosa porta in dotazione l'Italia alla prossima imminente COP21? Ne parliamo con Edo Ronchi, che è presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, è stato subcommissario per il risanamento ambientale dell'ILVA, ricercatore e soprattutto è stato ministro dell'ambiente, direi quello che ha un po' iniziato il percorso ambientale dell'Italia. Buonasera Ronchi, benvenuto. Buonasera. Senta, intervenendo ad Ecomondo pochi giorni fa, lei ha spiegato che nell'ultimo anno la produzione di energia rinnovabile in Italia è diminuita. Ci aspettavamo un trend costantemente in crescita. Che cosa è successo? Sì, in effetti è da diversi anni che l'elettricità da fonte rinnovabile cresce. Siamo arrivati a un buon 37,2%, la Germania, che sembra un paese green, al 27%, nel 2014. Fino a settembre del 2015 abbiamo i dati. La produzione complessiva di elettricità da rinnovabili è calata, in particolare per il calo molto consistente, circa il 25%, cioè 11 terawattore in meno dall'idroelettrico. Il solare e l'eolico sono ancora lievemente aumentati, ma aumentati troppo poco per compensare questo calo, in presenza di un aumento, questa è l'altra novità, dell'energia elettrica richiesta in rete. È cresciuto il consumo di elettricità. Dopo anni in cui è sceso, lei dice? Dopo anni di discesa è cresciuto del 2%, un po' per la ripresa dell'economia nazionale, un po' per l'estate molto calda che ha fatto crescere i consumi elettrici per i condizionatori. E quindi è aumentata, anche questa è una novità importante, sia in valore assoluto sia in valore relativo, cioè in percentuale, l'elettricità prodotta con combustibili fossili, segnatamente con gas. Dal 53 al 56%. Questa riduzione dell'idroelettrico è una semplice, diciamo, oscillazione o è possibile che sia un segnale di lungo termine, diciamo? Noi sappiamo che la fonte idroelettrica ha queste variazioni annuali che ci sono state anche in passato. Qui preoccupa uno la consistenza, cioè 11 terawattore è un po' troppo per essere uno oscillazione. Perché normalmente entro quanto sta questa oscillazione? 4, 5, okay. La metà, insomma. E un po' perché abbiamo segnali, diciamo, generali, si riducono i ghiacciai, quindi l'apporto idrico diminuisce nel bacino alpino, le estate sono molto secche. E poi quando piove, anche in montagna, le piogge sono molto intense e provocano ruscellamenti. Che l'acqua non entra in profondità. Sedimi dentro i bacini, certo, idrici, e quindi si interrano in parte, riducono la loro produzione. Questo per dire che bisogna anche un po' compensare questo calo in futuro dell'idroelettrico, che è, realisticamente ci sarà. Quindi le politiche di riduzione del solare e dell'eolico vanno riviste. Complessivamente l'Italia, dal suo punto di vista, che dotazione, come si presenta, ecco, a questa COP21? Per il passato, cioè fino al 2014 consuntivo, con meno 21% di emissioni di gas serra, con uno dei sistemi energetici a più basso contenuto specifico di CO2, quindi si presenta abbastanza bene alla trattativa. E anche uno dei paesi più ricicloni, no? Come si dice, che fa il miglior uso delle materie prime. Poi concorre a ridurre i consumi di energia, quindi il consumo. Infatti. Di fonti fossili. Preoccupa ovviamente questa inversione di trend, che vuol dire aumento del contenuto di CO2 per il kilowattora, aumento, non riduzione, aumento, e non ce lo possiamo permettere. Partiamo dalla critica dell'OCSE, c'è l'ultimo rapporto che fa il punto sulla green growth, sulla crescita verde su scala mondiale, pubblicato a luglio, cita due esempi negativi su scala internazionale di politiche non coerenti, dice di stop and go delle politiche per le fonti rinnovabili, cita appunto l'Italia e gli Stati Uniti, dice l'Italia è stata incoerente, ha fatto prima incentivi troppo alti e poi ha fatto uno stop troppo rapido, mettendo in drastica crisi un intero settore. Questo va sicuramente recuperato. Senta, alle rinnovabili elettriche è stato dato, questo è oggettivo, molto. Naturalmente c'è chi dice, bene, questi signori hanno ricevuto, adesso imparino ad andare con le loro gambe, anche perché spesso appunto con risorse limitate si finisce sempre per dover decidere di dare a qualcuno, ma magari di non dare a qualcun altro. Ecco, proprio su questo terreno strettamente dell'energia, delle emissioni di carbonio, lei non pensa che forse sarebbe effettivamente il momento di dare la priorità ad altre misure che abbiano lo stesso obiettivo, intendiamoci, o pensa invece che sia importante continuare a sostenere questo settore? Noi abbiamo bisogno di tanta energia rinnovabile, perché la decarbonizzazione richiede che noi continueremo a consumare energia sia elettrica che per calore e per carburante. Ecco, per esempio, il lato termico è stato curato pochissimo. Sì, diciamo la produzione di calore con fonte rinnovabile, anche si può fare di più anche quello, però la fonte elettrica rimane un pezzo grosso. Diciamo, tutti gli studi internazionali indicano la necessità di decarbonizzare l'elettricità come pilastro delle strategie low carbon, perché circa un terzo delle emissioni vengono da lì. Va bene, grazie mille Edo Ronchi. Prego, arrivederci. Vi lascio a Roberta Giordano e Effetto Notte, buona serata.